dallo studio 1 di Via Locatelli 1 a Milano. State ascoltando Blues Express con il Puma di Lambrate e i Blue Spots. Dite qualcosa, fatevi sentire, sennò tutti pensano che sia una trasmissione registrata. Ci siamo qua anche noi, Fabio. E che ore sono allora? Dillo. Sono esattamente le 17:28. Bravo. Abbiamo spento i telefonini, non si vede più. Stai a sentire questa. Il titolo non lo so, posso solo dirti che è mostruosa. Ho vinto il biglietto, Ivan da Genova, porca miseria. Ivan, mi metti nelle feste, perché un SMS del genere, io ti darei veramente volentieri il... Glielo diamo? Ma sì, mostruosa. Veramente, guarda, non si usa, perché così è peggio dell'aiutino. Però sei veramente troppo forte, Ivan da Genova. Allora mi devi scrivere nel prossimo SMS il tuo nome, il tuo cognome, e io ti dirò dove devi andare. Cioè, dove devi andare? Devi andare al Teatro Politeama a Piacenza il giorno 17 e dire: io sono Ivan da Genova e ho vinto il biglietto nella trasmissione Blues Express gestita da il Puma di Lambrate, ok? Mi raccomando. Un altro invece mi dice: io sono Max e vorrei un consiglio per farmi una discografia, un libro per farmi una discografia blues. Ma dai, Max, ma non c'è bisogno di un libro, basta che scrivi a trevesbluesband@hotmail.com e il Puma, che sarei io, ti risponde, ti faccio una discografia, pam, da paura, te la picchio giù io la foto. Vabbè, adesso devo parlare con i Blue Spots. Blue Spots sono Danny De Stefani, Paolo Verdelli e... Massimo Pavin al basso e... Roberto Berlini alla batteria. Detto il Berla, che salutiamo tutti con affetto. Sarebbe stato... doveva esserci anche lui. Dovevano esserci tutti e due, sì, purtroppo. Però uno ha fatto l'esagerato. A tavola, non da altre parti. Si è messo lì con la budra di fuori. Intanto fa caldo, mi guardo il derby. A proposito di derby, un saluto a tutti gli amici che sono di quell'altra squadra di Milano, e un saluto anche a Brutus, un saluto anche a Ciro 48 che dice: che peccato che Roy è un musicista purtroppo sottovalutato, sì, ma non da Blues Express, perché i suoi dischi hanno tenuto compagnia per anni e anni e anni, ha sottoscritto in questa trasmissione. Qualche bel concertino da annunciare per richiamare tutti i fans dei Blue Spots. Certo, sabato siamo a Ro al Doubt Death in versione elettrica. Ci saranno anche gli altri due soci, ovviamente. Certo, indirizzo del Doubt Death? Via Tavecchia, ma tutte le sapete. Il 17 siamo all'1:35 a Cantù. E vai! Ma si chiama sempre all'1:35. All'1:35 circa, non passa mai il tempo per il Carletto. E vai, ciao Carletto, un saluto affettuoso. Adesso però è arrivato il momento di un amico che io vi voglio segnalare, perché i Blue Spots non conoscevano bene Mike Sponza di Trieste, che ha fatto ultimamente, questo Cacanic Blues versione 2. Si chiama Central Euro Blues Convention, nel quale suonano musicisti di varie aree di provenienza blues, Ungheria, Slovenia. Insomma, in questo Is This The Love, lui ha chiamato un grande chitarrista che spero piaccia anche a voi. Si tratta di Carl Verheyen, ex chitarrista dei Supertramp, e quindi lo dedico a voi due, cari amici, agli altri due a casa e a tutti gli ascoltatori di Blues Express, Mike Sponza. Baby, I'm Era Mike Sponza da Cacanic Blues secondo assieme a Carl, non ho mai capito come si pronuncia, però voi avete capito che è Carl Verheyen. Mentre invece Walter da Firenze mi dice: grande Puma, vorrei che ricordassi il grande Danny Federici della East Street Band che se n'è andato purtroppo l'altra settimana. Hai ragione, io l'altra settimana mi ero portato anche uno dei primi brani, forse il primo album nel quale compariva Danny, e solo che poi dopo, sai com'è, l'età, la stanchezza, il rimbambimento, l'ho lasciato a casa, quindi lo ricordo così, con poche parole ma dettate da tanto affetto. E mi ricordo quel bellissimo concerto al Forum di Assago dove ci ha dato dentro e ci mancherà. Un abbraccio comunque a Danny Federici dovunque sia in questo momento, mentre invece so di per certo che in questo momento questo grande artista che si chiama Doug Womble sta suonando in giro per gli States. Anche questo voglio dedicare a te Paolo e a te Danny. E poi dopo ci ascoltiamo un altro brano dei Blues Pots. Un salutone anche a Gabriele Bertelli che mi scrive da Pisa, nonché dal Tasso da Bagnocavallo, nonché da Andrea da Genova. Volevo ricordare che in occasione del centenario della nascita di Robert Johnson, giovedì 8 ci sarà un concerto della Cava Bobby e Ruggero Roncato al Cru Café di Sesto San Giovanni. Un salutone a Cava e anche a Bobby. Allora ci ascoltiamo Doug Womble da questo bellissimo album che si chiama Country Division. Vi dico subito, non è un brano di blues, non è un brano di rock and roll, ma è un brano che fa venire la pelle d'oca. Quindi se avete sotto mano dei maglioncini, dei pullover, dei pile, metteteveli, perché questo è Blues Express. If I should fall, would blood you cleanse me, Lord. In the waters of your love. Though my pains have been many, I will if I should fall, would you lift me, Lord, so that I might find my way? I still can't weep, and I lose my let me lay. finale. Mamma mia, mamma mia. Beh, non sarà bello come i brani di Zarrillo e della Tatangelo, però ragazzi, che feeling, che feeling. Non sarà magari la musica che trasmettono delle altre radio, però. E questo dice, attenzione, Oste della Malora di Firenze, dice, la più grande musica la mette il Puma. Maremma boia ci aggiunge, ma no, non dire così, io cerco di fare, io metto la musica che piace a me, poi dopo se piace anche a voi io vi voglio bene, ma quanto vi voglio bene. Mi chiamo Ivan e vengo dalla scuola della Triple J, Jim Morrison, Jimi Hendrix e Jimmy Page. Ho appena messo su una nuova band, si chiama Indiana Birra Blues, ma ho vinto veramente l'ingresso. Ma ti sembra che noi ti pigliamo in giro? Ivan, Belanfige, ma ti sembra, ti sembriamo quelli che... No, no, Ivan, Ivan, tu presentati a Piacenza, magari controlla il giorno. No, no, sto scherzando. Sabato 17 maggio, Teatro Politeama di Piacenza, e dici sono Ivan, mi manda il Puma Blues Express, Milano, Rock FM, e ci sarà un biglietto. Sei contento? Sei contento? Dimmi che sei contento, sei contento, buon. Blues Pods, abbiamo deciso dopo un veloce dibattito interno di trasmettere il brano numero 5, che è un bellissimo brano di... un rock and roll, è di un giorno, una delle ultime leve, si chiama Doyle Bramall. Non è per caso quello che ha collaborato anche con Eric Manolenta Clapton? Sì. Io dovevo salutare qualcuno, mi sono dimenticato. Dovevo salutare Max, Max De Rio, l'ho detto anche l'altra volta, lui ci schernisce, ultimamente è ancora più orsetto lavatore del solito. E ha quel sorrisino così un po' triste, da ragazzo triste. Poi mi ha confidato che lui, il fatto di non essere più in radio e di non poter più trasmettere i brani di Patti Pravo lo incupiscono di brutto, e vabbè, allora cosa devo dire? Carissimi, un saluto al mio lavaggista preferito da Viareggio, si chiama Filippo Bini, e un grande, grande, grande, grande saluto a Sandro Pelodritto da Firenze. Ciao, i Blues Pods. Pretty good for the shit by me. Allora, l'unico neo dei Blue Spots, posso dirlo? È che voi siete nati qua a Milano e dintorni. Se voi eravate nati in California, in Florida o in Texas, Louisiana, magari non andavate a Blues Express, andavate a XAJR from Memphis, Tennessee. Però ci consoliamo perché siamo in tanti come noi. Lo so. Nati in un altro... I was born in Lambrate, in Antinam 49. È vero, cosa ti devo dire? Ma sì, ma dai, ma chi se ne frega? Ma vuoi mettere la bellezza di Lambrate, Pero, Nerviano, Ro? La periferia di Milano, ma anche quella di Firenze. Vuoi mettere Pregnana Milanese? Mamma mia, vuoi mettere un CD live in Pregnana Milanese? Allora, quando potremo svenire al tuo ruggito nelle tosche terre e cioè non mettiamola, non piglia, ovvia, non pigliate per il culo. A Viareggio, se nessuno chiama il blues a Viareggio cosa faccio? Arrivo a Viareggio e mi metto lì a suonare davanti alla stazione. Dai. E poi devo fare un altro annuncio. La Treves Blues Band, attenzione, così è un annuncione, no? Io ho voluto finire col botto, voi mi direte, ti dico che botto. Io in 15 anni di Rock FM non ho mai chiamato in studio la Treves Blues Band. E quindi come ultima trasmissione voglio farmi un regalo come si deve. In occasione dell'uscita del CD Live 2008 della Treves Blues Band, la Treves Blues Band sarà ospite del Puma di Lambrate. Lunedì mi sembra che sia il 26, 27 o 28, non lo so. L'ultimo lunedì. Il 26, ecco, mi suggeriscono dalla regia, lunedì 26 ci sarà la Treves Blues Band che presenterà il disco live. C'è poco da fare. E poi invece se qualcuno vuole fare un salto a Como, sabato prossimo siamo a Como, sabato 10 a Como, piazza, è inutile che fate quei versi lì, siamo in piazza Volta a Como. Dai. Allora, Doyle Bramall era nella band che accompagnava Stevie Ray Vaughan. Non era... sì, faceva parte della band, però la band erano i Double Trouble, giusto? Giusto. E erano la prima band dopo che Stevie ci ha lasciato, sì. Si chiamavano Archangel. Io mi ricordo anche un bel tributo a Stevie Ray, dove c'è appunto Doyle, dove c'è anche Johnny Lang, dove c'è Susan Tedeschi e tanti altri amici di Stevie. Ci fate ascoltare qualcos'altro dal vivo? Certo che e sì. Lo vogliamo dedicare al Nutra di Via Fratelli Rosselli? Voi che soprannome animalesco vi siete scelti? Siamo già delle bestie così, senza ma è vero andare nel preciso. Ogni soprannome sarebbe superfluo. No, ma chi è il tacchino di Pregnana? Il tacchino di Pregnana sei tu, e tu invece cosa sei? Il totano di... Vanzago. Il totano di Vanzago, mitico, va bene. That mean, dirty Frisco, and that low-down Santa Fe. Where me no Frisco, and low-down Santa Fe. You know that take my girl away, Lord, and back out on me. Where my mama, she done told me, and my papa, told me to, where mama told me, and my papa told me to. Where that woman can get in your face, Lord, she had no friend for you. Going back to fall. If I don't come back but 10, Lord, and I won't be back at all. And if I don't come back but 10, Lord, and I won't love to go. And if if I don't come back by 10 law, and I won't be back here. Just news on your television, or it might be God trying to get your attention. Are you an engineer working on a farm, or a Casanova with a whole lot of charm? It might be a mouse living in your kitchen, or it might be God trying to get your attention. Well, it might sound bad, or it might sound good. Might be made of steel, or it might be made of wood. Maybe it's just news on your television, or it might be God trying to get your attention. Well, it might be in the church house, or it might be on the street. Somehow or another, every soul has got to meet. Well, it might be in the city, or it might be in town. One way or another, we're gonna find the higher ground. Well, you might be deaf, or you might be blind. She'll put the message right in your mind. Might look like a plan or a coalition, or it might be God trying to get your attention. Might be dumb, but you'll get the answer when the answer comes. It might be news on your television, or it might be God trying to get your attention. It might be God trying to get your attention. Oh yeah. Listen to the waves, listen to the dream, listen to the river, listen to the sea, listen to the mountain, listen to the man, listen to the woman, listen to the man, listen to the rain, listen to the wind, listen to your mind, and then listen all over again. Listen to the birds, listen to the trees, listen to the river, listen to the sea, listen to the mountain, listen to the man, listen to the woman, listen to the rain, listen to the rain, listen to the wind, listen to the mind, and then listen all over again. Un finale gospel per ricordare che Kemmo sarà di scena sabato 17 a Piacenza al Teatro Politeama, unica data italiana. L'avevo invitato anche qui a Rock FM, ma arriva, suona e riparte. Comunque mi ha detto di salutarvi tutti, gli ho detto ma tutti, anche Sandro da Firenze. Si fa sì. Mentre invece Max, che prima mi chiedeva un aiuto per avere una discografia facilmente reperibile, io ho detto dai mandami un'email, e lui mi scrive sono sempre io Max, non ho il computer, puoi aiutarmi? E vabbè, mandami un indirizzo, ti mando un vaglia, oppure cosa devo dire? Avete dei soldi? Dai, facciamo una colletta, dai, ma non c'è problema, Max... No, scherziamo, dai. Ok, d'accordo, ti telefono, dai. Adesso mi stampo l'SMS, ti telefono e faccio tutto io. Oh, ragazzi, sono 17.59. Aspetta. Io mi dispiace, me ne devo andare. Se voi volete rimanere con Edo, io però me ne devo andare. No, sono stato molto felice Oh, se volete tornare anche quando c'è Gnola e quando c'era Tres Blues Band per un gran finale. Sapete che qua non ci sono problemi. Se poi volete intervenire anche durante la lunga diretta di Rock FM, io vi posso segnalare, ma lo conoscete già, Faulisi, lo conoscete? Sì, Maurizio Faulisi. Sì. Ma poi dopo se potete portare un Barbera oppure un cioccolato. Un cioccolato. Max ve lo tirate su con niente, un bel cioccolatone gigante. No, scherzi a parte, sono lieto, sono orgoglioso di avere come amici dei bravi musicisti come i Blues Pots. Purtroppo non sono intervenuti l'amico Roberto Berlini alla batteria e il bassista Max Pavin, giusto? Sì. Però c'erano qua Danny De Stefani e Paolo Verdelli che hanno tenuto in alto la bandiera del blues lombardo e grazie ancora. Grazie a te, Fabio. E non vi posso dire tornate ancora perché alla fine di questo mese qua si chiudono i battenti. Spero che vi facciate vedere, sentire, non è che adesso scomparite, finito Rock FM, vai, chi se ne frega. No, che cavolo dici? Ma veramente, vuoi sentire Fabio Trema, lascialo perdere, con l'Imono che c'è un camuffo. Vabbè ragazzi, vi saluto, vi voglio bene, salutiamo tutti e tre assieme, tutti quelli che hanno mandato gli sms, tanti, anche, grazie. Anche Easy che vende. Grazie a tutti voi e grazie ai Motorcycle Irene, un grazie agli amici di Cigarbal Blues, ospiti del Festival Blues di Bordighera, avevo portato qua anche il loro CD, ma lo trasmetto lunedì prossimo, scusatemi, non vogliatevene, e vi voglio bene, keep on bluesing, cosa salva dallo stress, il buon vecchio Blues Express, ciao a tutti! Ciao.